E va bene, me mo la fa su sta cosa, eh. Busco, metti la base che mo zippo. Siamo uno folk. Sotterroni, so puglioni, dimmi ora tu chi sei. So puro marucisimi, mi va su c'è cazzo, ehi. Fazzo orecchie, movimento, affari puro folk. Caro ritmo è sempre bello di suo paese, non me ne vo. Mangio griselle e pomme d'ore, che mi piace pure un lardore. Bevo miero bello russo, che se gusta con l'arrosto. Ti sa sizza, l'uovo, con lo pane, dillo forno. Questo qua nel mio mondo, tra la terra me profondo. Sempre sguagliato de bagnone, che giocava a palloni. Salli strati, salli stretti, quanti ridati, figli vecchi. Voterò questo pallone, mi gridava lui, stiamo sul pallone alla mano. Sotterroni, so cuglioni, dimmi ora tu chi sei. So puro marocisi, mi rimasto se cazzo è. Sotterroni, so cuglioni, dimmi ora tu chi sei. So puro marocisi, mi rimasto se cazzo è. Hey! Quante belle le storielle, casincia di bagnoni, l'ora uno prima di tutti, cadi mio brutti brutti. Li cantini figli cadi, che ne viene di lumusto, capi che non pia gusto, l'umiere più sata. La uia diventa uello, li figli facciamo secchi, ogni più lo dilli vecchio, ammaruto diventa realtà. L'inverno picciamo lo fuego, con le grauni gli scarpamo, con lo quartiere noi siamo, assisti spittigura. Sotterroni, so cuglioni, dimmi ora tu chi sei. So puro marucisi, mi ne vado per cazzo, ehi. Sotterroni, so cuglioni, dimmi ora tu chi sei. So puro marucisi, mi ne vado per cazzo, ehi.